questo inizio un po' thrilling di martedì 18 settembre 2024, sono le 14:18, per segnalare un po' un paio di cose che mi hanno distratto, diciamo, negli ultimi giorni. Tanta notizia di oggi, cioè questa per cui uno dei più illuminati imprenditori della Silicon Valley, paragonabile per visione avanzata del mondo ad Adriano Olivetti, voglio essere ironico, Jeff Bezos, ha deciso di far rientrare tutti i dipendenti di Amazon in ufficio. E questo naturalmente per tutta la stampa dell'establishment, che non aspettava altro, Repubblica e Sole 24 Ore in testa, significa che lo smart working è tramontato definitivamente. Questo contro qualsiasi analisi, report, trend, segnalo per chi si è interessato al tema di leggere sempre i report dell'Osservatorio del Politecnico di Milano sullo smart working, che è fatto molto bene. Però ecco, forse ancora più recenti sono i dati di alcune società di consulenza americane interpellate dagli headhunters, che dicono fondamentalmente che nel momento in cui un'azienda decide una cosa del genere, come ha fatto Amazon in queste ultime ore, praticamente si apre il mercato del lavoro per la fuga da quel tipo di azienda, perché obiettivamente Non so quante persone riuscirà effettivamente a trattenere una scelta di questo tipo, lo vedremo nei prossimi giorni. Fatto sta che, insomma, è sempre abbastanza curioso il riflesso condizionato di una certa stampa italiana legata a certi sistemi di potere che avvertono determinati impulsi, a volte forse nemmeno li avvertono, cioè pensano di doversi segnalare per la disponibilità a, diciamo così, anticipare i desideri del padrone. Non so come altro dirlo. Fatto sta che è davvero una scena abbastanza triste quella di questi giorni, che che ci raccontano invece un mondo che va in tutt'altra direzione. Poi adesso a novembre uscirà il nuovo rapporto dell'Osservatorio del Polimi e vedremo chi ha ragione. L'altra cosa, su cui tra l'altro ho anche scritto un pezzo sulla newsletter Stiamo Sprecando Internet, è un articolo uscito lo scorso 7 settembre a firma di Alfonso Berardinelli, che insomma personaggio molto importante della cultura italiana, al quale però evidentemente, senza farsi troppe domande, è stato dato un compito difficile, cioè quello di fare un commento sul ruolo della transizione digitale nella crisi della cultura, nella presunta crisi della cultura. Ha scritto un articolo che dovrebbe essere una recensione di un libro di Vanni Codeluppi, che se non sbaglio si intitola una cosa del genere I sette peccati capitali del digitale, insomma una di queste cose qua. E Berardinelli ha dato un po' la stura a tutti i pregiudizi che ci sono sulla rete, non quest'anno ma negli ultimi 20 anni, cioè ha pescato davvero da un archivio amplissimo. Ho provato a rispondere su Substack, ma naturalmente non credo che leggerà mai le mie povere parole. Qui mi preme solo sottolineare che ho provato anche a usare in questa occasione la funzionalità di Substack, del cosiddetto voiceover. Cioè Substack adesso ti permette di incidere un audio di te stesso che leggi l'articolo, e già questo è abbastanza cringe, che poi andrebbe ad alimentare un ipotetico feed RSS di un podcast di tutti questi contenuti audio, e quindi praticamente insieme alla newsletter c'hai anche il podcast e di tutto si occuperebbe Substack. Con molta ritrosia ho provato a farlo, e è ancora più grave. L'episodio precedente di Pendo Deliri è quel file audio, quindi in mezzo a un podcast che è tutto improvvisato, come vedete anche in questo caso, in cui parlo a braccio, c'è questa specie di alieno che sono io che leggo un mio stesso articolo per Substack, una roba da brividi che non ripeterò mai più. Perché non lo so fare, mi manca il respiro quando leggo ciò che ho scritto. B, perché provo sempre un certo ribrezzo a leggere quello che scrivo. Io non scrivo particolarmente bene, e se i libri si leggono bene è sempre per merito dell'editor, vorrei chiarire anche questa cosa. E C, forse mettere sempre tutte le possibili funzionalità sui blog, sulle newsletter, trasforma anche le piattaforme che nascono con le migliori intenzioni come Substack in degli zibaldoni, in delle rosticcerie di cui forse oggi non abbiamo bisogno.